sono briciole di vite. Venite giù da qualche muro per dormire in quella strada. Ed ancora non c'è nessuno, solo l'ultima colomba bianca. Caduta a terra stanca, no, fermarli non è possibile, oh no, fermarli non è possibile. Sulle colline che non possono fare niente per fermare quei cannoni che le sporcano di sangue. I bambini sono sulla neve mentre giocano alla riscossa. Quella neve ora è rossa, no, fermarli non è possibile, oh no, fermarli non è possibile. E chi lo sa se il sole sarà sempre là, domani chi lo rivedrà o chi forse morirà. E chi lo sa se il sole sarà sempre là, domani chi lo rivedrà.